Pane, burro e rock and roll, sono le 8. Spaccate! Andiamo a svegliare i nuovi radioascoltatori che aprono gli occhietti solo adesso con questa novità, l'ho accennata qualche minuto fa, da oggi per tutta la settimana ci terrà compagnia un film e tra l'altro ne approfitto, rubo le parole a un radioascoltatore patentato che ci scrive via SMS, ci fa i complimenti, dice viva il cinema alla radio perché cinema e radio uniscono, la televisione divide. Perdoniamo la demagogia e il momento di esaltazione del nostro radioascoltatore Andrea e gli rubiamo le parole per presentare questa nuova rubrica, un paio di interventi a settimana per ricordarci un film. È talmente famoso il film italiano che ci accompagnerà come leitmotiv fino a venerdì, quindi non ve lo annuncio nemmeno. Intanto a voi che vi siete appena svegliati, buona giornata! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Ma siamo quelli... andiamo, vai. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Ragazzi, arrivederci. Oh, la. Mamma mia, vado. Ehi! Chi siete? Ma vaffanculo! Cosa portate? E beh, che c'è? Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Yeah! Corra negli studi della diretta, maestro Fricantoni, perché ci sono le note liete di questa trasmissione. Eccomi. Stavo ansimando. Sì, ho corso alla lettera, l'ho presa la lettera. Mi stupisce sempre di più. Compleanni del giorno, via! E facciamo gli auguri, oggi 15 ottobre. Bene, a chi? A Fredrik Nietzsche. No, si prenda, vada. Fredrik. Colpo di scena. No, allora, Fredrik. Allora, dobbiamo fare gli auguri a Fredrik Nietzsche. Nasceva. Lei mi semplifica, sì, nasceva quest'oggi nel 1844, filosofo e scrittore tedesco. Lei sa che era l'inventore della figura del superuomo. Degli uomini grossi, giganti. Esatto, lui anticipò tutti i mitici supereroi americani. Esatto. Vero o falso? È sbagliato, naturalmente. Passiamo invece a una superstar italiana. Nasceva nel 1923, quest'oggi, il grandissimo Italo Calvino, scrittore. So che le piace molto DJ Ariere. Mi dica almeno un libro di Italo Calvino. Me l'ha già chiesto un sacco di volte. Lo so, non quello. I sentieri dei nidi di ragno. Complimenti. Grazie. La risposta è esatta. Chiudiamo con un signorino. Ahia, qui ne scopriamo una bella. Il 15 ottobre del 1953 nasceva uno dei tanti fratelli di Michael Jackson. Sa che quando era piccolino suonava nei Jackson 5. Sì, 5 lui, Jackson. Esatto, lui nello specifico era Tito Jackson. Colpo di scena. Lo faccio con la voce di Freak. Che cosa? Il colpo di scena. Il colpo di scena. Va bene. Io farei i complimenti ai genitori di Michael Jackson, che hanno avuto il buon gusto di chiamare Tito. Sì, loro figlio, ma soprattutto la Toia. Eccolo lì, lo sapevo. Se la ricorda la Toia, La Toia me la ricordo perché è un gran bel pezzo che non la vedevo sul giornale, l'ho rivista proprio recentemente. Comunque scopriamo che Michael Jackson aveva un fratello chiamato Tito. Mitico Tito. Ciao Tito. About me, I'll be alone, dancing, you know. I Simple Minds, che si aggiungono anche loro alla nostra missione Davide contro Golia. La nicchia vincerà. Don't you forget about me. Non dimenticatevi di noi. Abbiamo bisogno degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Ogni giorno, sempre di più, prendono il vizio di svegliarsi con pane, burro e rock and roll. Velocemente ne approfitto per salutare anche gli amici che venerdì sera sono passati a trovarmi all'Atomic qui a Milano. Seratone folle, seratone veramente folle, con Operaio del Rock and Roll. Ho conosciuto di persona il patentato 147, colui che sta ascoltando la concorrenza. Vedremo di ricontattarlo nella puntata di mercoledì a vedere che radio andrà ad ascoltare questa settimana. Siete sempre gentili, è un piacere incontrarvi, volti nuovi, gente nuova, e devo confessarlo, è con orgoglio che accetto certi complimenti, mi fanno molto piacere, quindi andate avanti a farceli. Ho notato con molto piacere che apprezzate tanto questa cosa, che noi della redazione di Pane, Burro e Rock and Roll ci si sveglia prima di voi. Non di tutti, qualcuno si sveglierà anche prima di noi, ma in molti dicono: no Mariel, ma tu veramente ti svegli alle 5:30? Eh no, che è un ologramma. Eh sì, e lo facciamo per voi, ma è un piacere, lo facciamo per noi, perché è una crescita spirituale questo programma radiofonico. Va bene, è meglio se proseguo con la musica. Velocemente, sono contento che questa nuova iniziativa di farvi ascoltare di farvi rivivere un film a settimana con un paio di interventi vi sia piaciuta. In molti annuiscono, approvano la rubrica via SMS. C'è da dire che iniziare con Non ci resta che piangere, è stato così. E beh, inizi col pezzo forte, no? Quindi sogneremo un po' con brani che ogni tanto cadranno dal cielo, tratti da oggi fino a venerdì da Non ci resta che piangere. Mentre in risposta al nostro editorialista Topo Rogna c'era un SMS, eccolo qui, dall'ANCI, patente 254. In risposta al Topo Rogna dico che preferiremmo essere annientati dalle tope più che dai topi. L'abbiamo capita, e non è facile di questi tempi a quest'ora della giornata capirle. Si chiamano Led Zeppelin, Communication Breakdown. Oh yeah. Yeah. La cultura con la C maiuscola sulle frequenze di Rock FM, grazie a lui, il nostro rocker di riferimento, Roberto Fricantoni. Attenti voi là fuori, i vostri vocabolari non sempre hanno tutto, perché non sempre i vostri vocabolari sono rock. Infatti, e comunque non lasciateli là ad ammuffire. Dategli ogni tanto un'occhiata, questo è il consiglio di oggi all'interno della premiata rubrica fortemente voluta dal nostro rocker bolognese, le parole ribelli, perché anche le parole a volte sanno essere rock. Infatti, le parole sono spesso rock. Sa che nella casa di cura Eleonora Duse, Eleonora Duse, c'è chi ogni notte non si addormenta se prima non ha letto una parola nuova sul vocabolario? Immagino di sì, non vedo l'ora di scoprire la parola di quest'oggi. L'espressione, l'idioma rock di oggi è smegma. Bene. Diciamo benissimo. Bene. Che cos'è lo smegma? Ce lo dica, la prego, che si possa sentire. Ma certo, non dobbiamo aver paura della cultura. Ha ragione. Secrezione bianco-giallastra che si deposita intorno agli organi genitali maschili e femminili. Nei maschi è definito così, popolarescamente, volgarmente, bonariamente, la vedo teso. Vedo un filo sì. Caccio cappella. Caccio. Qualche commento da suggerire? La ringrazio per non aver utilizzato nessun altro termine. Era la parola di quest'oggi? Sì. Avrei sì. tanto voluto saperlo, adesso lo so. Grazie. È stato un piacere. Spread your wings, shout and take. nothing's going to harm me now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dio, dovessi rinascere, io voglio rinascere Janis Joplin, eh? Sia ben chiaro. Summertime! È il momento pane, burro e rock and roll, ed è subito Pelle d'Oca! Vi accompagniamo fino alle 9 del mattino. Segnalo che per la prima volta nella mia decennale carriera radiofonica ricevo in dono due sigarozzi cubani belli freschi, arrivati orora da Cuba. Me li porta il nostro tabaccaio di riferimento, che ringrazio, che saluto. Ho avuto il piacere di conoscere Carlo e la conferma che chi ascolta pane, burro e rock and roll è messo male, quindi state tranquilli, stiamo in una botte di ferro, siamo tutti nella stessa barca. Ringrazio Carlo, io tra pochi minuti mi accenderò il sigarozzo cubano, o dici Spadino che a quest'ora è forse un po' troppo presto? Forse sì, eh. Meglio se aspetto magari nel pomeriggio. Intanto grazie, un piacere, ci tenevo a dirlo, è la prima volta, cioè di regali ne sono arrivati spesso e volentieri, sigari cubani è la primissima volta. Evito i commenti arrivati via SMS, anche perché tra pochissimi istanti c'è l'appuntamento con il test attitudinale. Non sottovalutate la cosa, una domanda fresca fresca per voi anche quest'oggi, e per arrivare belli pronti, belli preparati, vi ci faccio accompagnare per mano dai Deep Purple. Seguire l'ultima mezz'ora di diretta con ancora nuove sorprese, novità, pane, burro e rock and roll. Continua a stupire. Ma io mi accendo il sigaro. 8:24 troppo presto. Adesso sveglio dalle 5, però. Quindi è come se fosse pomeriggio. No, eh? No. Sweet Lucy was a dancer, but no one was a chancer, because she was a samurai. She made electric shadows beyond our fingertips, but none of us could reach that high. She came on like a teaser, I had to touch and ease her, enjoy a little paradise. The rock was in my pocket when Lucy made the rocket. She never knew the reason. Certo che a volte i rocker sono proprio dei mattacchioni, non gli basta il nome che hanno, guardalo qui, Roberto Antoni non bastava, no, pure Freak si fa chiamare, guarda qui, l'Ariele non gli bastava, pure Mr. Granchio si fa chiamare. È un vezzo così, è un loro, come si può dire, un loro gioco, uno sfizio. Un divertissement. Esatto, un diporto. Ed è proprio di soprannomi che parliamo quest'oggi, dove? All'interno della rubrica Il test attitudinale di quest'oggi. Preciso come sempre, caro Frig, oggi infatti parliamo di soprannomi. C'è una celebre coppia di rockers che agli inizi della loro carriera, forse a causa del loro lifestyle decisamente sfrenato, si guadagnarono il soprannome di Toxic Twins, ovvero i gemelli tossici. Sapete dirci di chi stiamo parlando? Opzione A, Freak Antoni e Dandy Bestia degli Schiantos. Chi lo sa se sono loro i Toxic Twins? Opzione B, Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith. Forse sono loro che si girano se li chiami Toxic Twin? Complimenti. Grazie. Mi è piaciuta molto. Alla opzione C, terza risposta, incontriamo Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones. Amici, chi sono i Toxic Twin? Freak Antoni e Dandy Bestia, Steven Tyler e Joe Perry o Mick Jagger e Keith Richards? La risposta esatta, come al solito, ve la diamo dopo, e cioè la soluzione perfetta, giusta, a fra poco.